essere che immergi e non affondi, porta via le dune da questa spiaggia. E una stella libera sarai, tu che non sai piangere, tu che non sai ridere, ma non riesci a smettere di provare ancora, insistere, stella che...